Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 17 maggio il sole in regione sorto alle 5.32 tramonterà alle 20.36. Venerdì c'è luna nuova e siete all'ascolto di Vita nei campi. Buongiorno da Armando Mucchino. Per la nostra salute e anche di quella del corpo e della terra sarebbe buona cosa mangiare e coltivare più leguminose, proteine vegetali. Per tradurre questo auspicio oggi iniziamo a parlare di fagioli con una piccola guida alla scelta delle specie e gli accorgimenti di base per coltivarli. A seguire il corsivo di Enos Costantini che, partendo dalla rivalutazione della famiglia coltivatrice, vede un rinnovato ruolo di centralità per l'agricoltura nel mondo cambiato del post-coronavirus. Emergenza che ritorna nella rubrica delle normative con i protocolli anticontagio per le aziende, mentre in quella che dedichiamo a olio e olivo inizia una miniserie dedicata alle principali malattie della pianta. Si inizia con l'occhio di pavone. Quale sarà l'agricoltura 4.0? Abbiamo delle previsioni, neanche tanto futuribili, nello spazio che dedichiamo all'attività scientifica dell'Università di Udine. A seguire la rubrica dei giardini con una scheda su Sesto Regene e la millenaria abbazia di Santa Maria in Silvis. Andamento dei mercati, previsioni del tempo e il proverbio friulano della settimana chiudono la puntata. Per la salute del nostro corpo e anche per la salute del corpo della terra, Cristina Micheloni nella scorsa puntata aveva auspicato un maggior utilizzo nelle nostre diete e nei nostri orti dei fagioli. L'abbiamo presa alla lettera e oggi abbiamo contattato Costantino Cattivello, che è il tecnico dell'ERSA che segue la sperimentazione orticola in campo. È un esperto di fagioli e gli abbiamo chiesto come orientarci nel panorama orticolo di questa leguminosa. Beh, ha detto innanzitutto che il fagiolo è una specie che necessita di elevate temperature, soprattutto nelle prime fasi di sviluppo, però teme il caldo eccessivo in fioritura e allegagione. Pensate che la cascola fiorale inizia a essere consistente quando la temperatura supera i 35 gradi. Quindi da questo ne deriva che è importante scegliere l'epoca di semina. E si può dire che questa specie si può seminare da fine aprile a inizio luglio. Però abbiamo notato che sempre più spesso le semine tardive sono le semine che danno i migliori risultati rispetto a quelle precoci, a causa proprio del verificarsi di picchi termici in luglio, periodo in cui generalmente la pianta va in fioritura se viene seminata a maggio, mentre con le semine tardive, cioè le semine di inizio luglio, la fioritura si ha generalmente fine agosto, inizio settembre, in un periodo di temperature migliori. Poi c'è da dire anche questo, noi parliamo di fagioli, in realtà ci riferiamo a una sola specie di fagioli, Phaseolus vulgaris. Ci sono comunque altre due specie abbastanza coltivate in Italia. La prima è il fagiolo corona o bianco di Spagna. Il secondo è il fagiolo di Lima o fagiolo del Papa. Ho parlato di specie, il che significa che all'interno di una specie ci sono innumerevoli varietà. Pensiamo nel fagiolo comune al borlotto, al cannellino e così via. Rispetto al fagiolo comune, il bianco di Spagna è una specie rampicante, presenta un seme molto più grosso, bianco o con screziatura violetta su fondo vinato, dei fiori bianchi o rossi, un ciclo tardivo, una elevata rusticità, tanto che è molto più resistente del fagiolo comune a certe malattie, ma richiede temperature mediamente più alte rispetto al fagiolo comune. Abbiamo poi il fagiolo del Papa o di Lima, che è una specie rampicante, molto tardiva e vigorosa, con semi piatti, bianchi o con screziature vinacee. Alcuni ascoltatori conosceranno certamente il fagiolo mungo e il fagiolo dall'occhio. Sappiate che i romani conoscevano questo fagiolo, mentre il fagiolo che noi coltiviamo, il fagiolo comune e anche gli altri due tipi di cui vi ho parlato, sono arrivati con la scoperta dell'America. Il fagiolo mungo, dicevo, e il fagiolo dall'occhio, entrambe le specie, a dispetto del nome, sono abbastanza diverse dal punto di vista botanico rispetto al fagiolo comune. Entrambe sono nane, hanno un seme molto piccolo, verde nel caso del mungo, rossastro nel caso del fagiolo dall'occhio. Hanno entrambe elevate esigenze termiche, tanto che si consiglia di seminare da metà maggio in poi. Hanno un ciclo vegetativo variabile, ma in genere meno lungo per il fagiolo dall'occhio rispetto al fagiolo mungo. Tra i fagioli nani da sgrano, orientatevi su varietà ad alta resa alla sbusciatura, che va di pari passo con un baccello corto, ricordatevelo. E anche su varietà di buona sanità. Mi sentirei di indicare varietà collaudate come ad esempio Etna, Teggia o Ulisse. Mentre tra le varietà rampicanti preferite i tipi poco vigorosi, precoci e con seme di buone dimensioni, come ad esempio Bingo o Brace. Il fatto di essere strategica per la vita potrebbe rilanciare teorie e prassi dell'agricoltura nel post-emergenza coronavirus. Lo pensa anche Enos Costantini. Lo smart working da tendenza è diventato diffusa presenza, ma il futuro non sarà molto smart. Virologi e infettivologi tentano di delineare l'avvenire nel breve termine. Altri, i pensatori, i filosofi, i sociologi, tentano una proiezione nel medio termine. Il capitalismo cambierà, ci dicono, i big data saranno sempre più big e l'e-commerce dilagherà. Ci saranno come sempre vincitori e perdenti. L'agricoltura per una volta dovrebbe accettare di non essere perdente, avendo in mano un'arma vincente che, con bella metafora, si chiama il pane quotidiano. Oggi più che mai l'agricoltura ha bisogno di un pensiero, di una filosofia e di una sociologia che contemplino la sua futura economia. La nostra opinione è che dovrebbe basarsi sulla famiglia coltivatrice. È questa che ha fatto nascere l'agricoltura e l'ha portata avanti per 10.000 anni, malgrado guerre, saccheggi, ruberie, razzie, tasse e gabelle. E soprattutto malgrado l'asservimento fisico e culturale dei suoi addetti, coi giovani contadini considerati carne da cannone e le donne animali da soma. Nell'immediato secondo dopoguerra la politica favorì la famiglia diretto coltivatrice. Peccato che un'altra politica favorisse l'invadenza dell'industria e l'abbandono delle campagne. Non so che cosa abbia previsto Nostradamus per le multinazionali del food. So che gli imperi prima o poi crollano e l'impero del cibo non farà eccezione. Il Friuli può organizzarsi per dare da mangiare ai friulani e per bevi qualche tai, qualunque sia l'andamento del Dow Jones. Un paio di piccoli paesi hanno saputo trarre insegnamento da alcune crisi passate. La ricca Svizzera, pur non belligerante, fece la fame durante il secondo conflitto mondiale e disse mai più. Ora la sua politica agricola è un'assicurazione contro le future sventure. La meno ricca Cuba fece la fame dopo l'imprevisto crollo dell'impero sovietico e per sante scugne si dedicò alla orticoltura urbana. Nessuno ora prevede carestie, ma nessuno aveva previsto la crisi finanziaria del 2008 e nessuno aveva previsto l'attuale pandemia. La storia è fatta di improvvisate che generano insicurezza. L'agricoltura locale su base familiare può generare sicurezza e qualche tai a sollievo della nostra vecchiaia. Durante l'emergenza Covid-19 le imprese agricole e agroalimentari non hanno mai interrotto l'attività. Con Marco Malison, responsabile tecnico economico di Coldiretti del Friuli Venezia Giulia, vediamo quali sono le novità in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Beh, anzitutto è bene chiarire che in Italia un eventuale contagio da coronavirus che si realizzi sul luogo di lavoro è assimilato a un infortunio e di conseguenza anche nelle imprese agricole ricadono sul datore di lavoro gli obblighi di messa in sicurezza dei lavoratori e tutte le responsabilità civili e penali in caso di inadempienze. E quali sono le precauzioni da adottare? Anzitutto è necessario adottare soluzioni organizzative per fare in modo che datori di lavoro, dipendenti, collaboratori, eventuali clienti che si rechino in azienda per acquisti mantengano sempre le distanze di sicurezza. Ma dove le circostanze lo richiedono, è anche obbligo del datore di lavoro mettere a disposizione appositi dispositivi di protezione individuale. C'è anche qualche formalità da rispettare? Per evitare ogni possibile contestazione dell'ispettorato del lavoro con l'INAIL è opportuno, anzi direi necessario, che anche le imprese agricole integrino il proprio documento di valutazione dei rischi, il cosiddetto DVR, con un protocollo anticontagio che deve essere consegnato ai dipendenti e collaboratori. Il decreto Cura Italia aveva messo a disposizione 50 milioni di euro per rimborsare le spese di acquisto di dispositivi di protezione individuale, però. Sì, in effetti lunedì scorso è stato aperto il bando dell'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo d'Impresa che scadrà alle ore 18 di domani. La domanda è molto semplice e si presenta tramite il portale www.invitalia.it inserendo semplicemente il codice fiscale dell'impresa, quello del legale rappresentante e l'importo a rimborso. Sullo stesso sito, entro fine settimana, dovrebbe essere pubblicata la graduatoria e per chi sarà in posizione utile sarà tempo fino all'11 giugno per integrare la domanda con tutti i dati necessari e le fatture quittanzate. La spesa complessiva deve superare i 500 euro e essere avvenuta dopo il 17 marzo. Per la serie che dedichiamo all'olio e all'olivo, il titolare della rubrica, Ennio Scarbalo, cede per 3 puntate gli argomenti al collega dell'ERSA, Marco Stocco, per parlare delle principali malattie della pianta. Oggi si inizia con l'occhio di pavone. Il cicloconio è la principale malattia fungina dell'olivo. Le infezioni avvengono a carico delle foglie e sono facilmente riconoscibili. Si manifestano con tacche circolari, scure e necrotiche, di dimensioni più o meno estese a seconda della gravità dell'infezione. Lo sviluppo di questa avversità è strettamente legato all'andamento meteorologico e poiché il periodo di incubazione della malattia è molto lungo, l'efficacia della strategia di difesa adottata si può riscontrare solo dopo alcuni mesi. Per lo sviluppo del fungo sono necessarie condizioni ambientali in grado di favorire la germinazione delle zoospore. In particolare sono necessari elevate percentuali di umidità relativa e temperature comprese tra i 10 e i 20 gradi. L'optimum è tra i 12 e i 15. Queste condizioni di solito si verificano in primavera e in autunno. Il danno più grave è quello a carico delle foglie. La prematura filoptosi può verificarsi anche prima della completa manifestazione della sintomatologia tipica, le macchie fogliari ad occhio di pavone. Fattori che influiscono sulla defogliazione sono l'età della foglia, l'intensità dell'infezione, la localizzazione delle lesioni, agenti meteorologici e la stagione. Filoptosi più intense si verificano di solito in primavera. La caduta delle foglie può compromettere non solo il raccolto dell'anno, ma, in caso di gravi infestazioni, la vita stessa della pianta. La sensibilità varietale gioca un ruolo determinante nella manifestazione dell'infezione. Maggiormente vulnerabile è la varietà bianchera, che richiede una cura particolare a questo patogeno. Essa infatti, se incautamente piantumata in areali con forti umidità relative, manifesta particolarmente la defogliazione della chioma, specialmente nelle parti più a ridosso del terreno, ove l'umidità tende a ristagnare più a lungo. Trattamenti preventivi con prodotti a base di rame, da eseguire prima della germinazione delle zoospore, in primavera e in autunno, assieme a una scelta accurata del luogo di impianto, risultano il miglior compromesso nel contenimento della patologia fungina. Si rammenta che sul sito dell'ERSA e sul canale Telegram sono disponibili i bollettini di lotta integrata e biologica. Per lo spazio che dedichiamo ai contributi dell'Università di Udine al mondo dell'agricoltura, oggi in studio c'è Stefano Mattiusi, perito agrario, laureando in allevamento e salute animale con il professor Edo Dagaro. Si sta occupando di uno speciale spin-off che parla di nuove tecnologie 4.0 anche in agricoltura. Innanzitutto, carta d'identità dello spin-off. Allora, il nome dello spin-off è Digital Farm 4.0, la sede sarà presso l'Università di Udine e tra le principali attività possiamo annoverare le seguenti, come interventi e servizi finalizzati all'implementazione delle nuove tecnologie, tra cui l'Internet delle cose, i sensori, le tecnologie NIRS, i servizi cloud nelle aziende agricole. Poi interventi e servizi finalizzati al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e del benessere degli operatori e degli animali e, cosa non meno importante, la valorizzazione dei prodotti del territorio. Come nasce? Lo spin-off nasce dall'attività di studio e ricerca sulla produzione animale e vegetale realizzata in questi ultimi anni presso l'Università di Udine e questo progetto è stato anche presentato in una passata edizione di Startup Friuli Venezia Giulia. In sintesi le sue applicazioni? Tra le applicazioni avremo l'applicazione della tecnica NIRS che si basa sulla spettroscopia visibile nella produzione di alimenti agricole. Le matrici analizzate saranno foraggi secchi, trinciati freschi, insilati, granelle e farine delle principali materie prime. Poi tratteremo della robotizzazione della stalla con il robot di mungitura, le allattatrici, le macchine per azionamento del cibo, l'utilizzo di sensori di stalla per la valutazione dei parametri metabolici. Poi avremo anche delle app per la digitalizzazione dei processi, il controllo e la verifica degli stessi. E tutte queste tecnologie saranno basate su una tecnologia cloud. E per la produzione agronomica? Le ultime tecnologie prevedono l'utilizzo di droni e immagini satellitari per rilievo dei confini, la mappatura dei terreni, la guida automatica mediante tecnologia GPS, la concimazione e la semina rateo variabile, l'irrigazione di precisione, la mappatura delle rese e la tracciabilità dei dati raccolti. Oggi andiamo a Sesterregen, uno dei borghi più belli d'Italia, alla scoperta di itinerari tra arte e natura. Ci conduce Franca Merluzzi, che cura la rubrica dei giardini. Sesterregen conserva un importante patrimonio d'arte con la sua millenaria abbazia di Santa Maria in Silvis, splendida per sculture e pitture. Il contesto merita sempre una visita. Dopo i silenzi e le atmosfere di questi luoghi sacri, usciti all'aria aperta, possiamo camminare lungo un percorso che costeggia gli antichi fossati a difesa del luogo. L'ombra degli alberi e lo scorrere dell'acqua rendono gradevole la passeggiata. Allontanandoci di poco, possiamo liberamente visitare il giardino Roseto dello storico Palazzo Burovic, ora sede comunale. Fu sapientemente ripristinato una ventina di anni fa, tanto da essere considerato un piccolo gioiello d'arte giardinistica. Si coglie ancora una particolare cura per le rose, che assicurano fioriture prolungate. Il giardino, ad aiuole, si sviluppa con una prospettiva in asse verso l'antico brolo, ora tenuto a prato. A poca distanza dall'abbazia si estendono i prati Burovic. I Burovic furono gli ultimi proprietari del palazzo e di queste terre. Sono 13 ettari di elevato interesse ambientale e naturalistico, percorribili anche in bicicletta, tutelati come la vicina zona del lago Premarine. Gli appezzamenti a prato stabile sono delimitati da quinte boschive formate da farnie secolari, olmi e aceri campestri, frassini e ontani neri, sanguinelle, fusaggini, grovigli d'edera e di vitalba. I prati stabili, falciati 2-3 volte l'anno, consentono la sopravvivenza di ecosistemi caratterizzati da un insieme di specie vegetali e animali assai diversificato. I prati cambiano colore in ogni stagione e nella primavera avanzata sono traboccanti di fioriture tra ronzii e canti di grilli. Per noi, abituati alle culture intensive, ordinate e monotone, l'addentrarsi in queste distese ci fa sentire in un altro tempo. La campagna si presenta come secoli fa, quando l'erba e la legna costituivano le principali risorse. È un paesaggio inusuale che ci fa scoprire e apprezzare un'altra bellezza. E con Amos D'Antoni l'andamento dei mercati agricoli. Andamento con cenni di pesantezza venerdì scorso alle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, con prezzi in calo e dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 16,30 e 16,50 euro il quintale IVA esclusa. La soia tra 36,80 e 37,10, l'orzo con peso specifico 60,63 tra 15,30 e 15,80 e il frumento tra 19,20 e 19,50. Rispetto ad un anno fa il mais è aumentato di 20 centesimi e la soia di 5,10 euro il quintale. Scambi in ripresa dal trofotticlo di Udine con prezzi in equilibrio. Insalata Gentile e la lattuga Trocadero vengono quotate all'ingrosso tra 0,90 e 1 euro il chilo IVA esclusa. I finocchi tra 1,20 e 1,30. I cavoli tra 1,50 e 1,60. Il radicchio sottotondo tra 1,20 e 1,30. Quello di Treviso precoce tra 1,90 e 2 euro. Gli aspargi da 3,50 a 4,50. Le fragole da 3 a 4,50. Le ciliegie da 3,50 a 5 euro. Settimana travagliata nel settore della pesca per le condizioni non favorevoli del tempo, con prezzi in leggero aumento. Alla cooperativa pescatori San Vito di Marano Lagunare, i branzini, suddivisi in piccoli, medi e grandi, vengono quotati da 24 a 33 euro il chilo IVA esclusa, le umbrine da 13 a 28, i latterini da 7 a 9, i gamberetti da 10 a 15, le seppie da 8 a 14, i calamari e i calamaretti da 25 a 30 e le capesante da 10 a 13. Infine, andamento con scambi cedenti nel mercato degli avicunicoli, rilevati dalle quotazioni dell'Alta Italia, dove i polli a terra vengono pagati tra 0,86 e 1,03 euro al chilo, i tacchini maschi tra 1,26 e 1,32, le anatre tra 2,13 e 2,22, le faraone tra 2,218, i conigli oltre 2,5 kg tra 1,21 e 1,27, mentre il prezzo delle uova oltre i 73 grammi è di 18,10 centesimi il pezzo. Con il previsore dell'ARPA Osmer, Livio Stefanuto, sentiamo cosa ci riserverà il meteo nella settimana entrante. In questi ultimi giorni, sul nord Italia, sono affluite correnti caldo-umide mediterranee e correnti più fresche dal nord Europa. Per alcuni giorni abbiamo avuto piogge e temporali. Fino a oggi sono caduti dai 100 ai 300 mm in montagna, 150 sulle zone collinari, da 50 a 100 mm sulla media e alta pianura, da 10 a 20 mm su bassa pianura e costa. Ora la depressione centrata su Gibilterra fa affluire correnti africane sull'Italia, ma lunedì si porterà sul Tirreno, richiamando correnti nord-orientali nei bassi strati. Lunedì su pianura e costa avremo cielo sereno o poco nuvoloso. Sui monti cielo da poco nuvoloso a variabile e nel pomeriggio sarà probabile qualche locale rovescio o temporale, specie verso il Cadore. Sulla costa soffierà borino o bora moderata. Tra martedì e mercoledì la depressione potrebbe avvicinarsi con aria più umida, ma la sua evoluzione è ancora incerta. Se dovesse portarsi sul medio Adriatico, il tempo potrebbe nuovamente peggiorare e martedì avremmo altre piogge. Diversamente, si formerà solo un po' di nuvolosità. Continuerà però a soffiare bora, anche temporaneamente sostenuta. Nei giorni successivi comunque tornerà l'anticiclone, e il tempo dovrebbe rimanere bello e stabile fino al prossimo fine settimana, con temperature dai 15 ai 27 gradi in pianura. Vi consigliamo comunque di seguire gli aggiornamenti che verranno emessi nei prossimi giorni. Termina qui la puntata. Vogliamo lasciarvi con il proverbio friulano: a San Bernardin al fluris el pan e vin, ovvero a San Bernardino il 20 maggio fiorisce l'acetosa, il rumex acetosa. Coordinamento tecnico di Ugo Nicoletti, nostro indirizzo mail vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.